24 mattino di Alessandro Milan. 7:34 minuti, eccoci qua cari ascoltatori con 24 mattino. Voglio subito lanciarvi il sondaggio di oggi che potete già votare su radio24.it. Nella home page trovate bianco o nero, un po' in basso a destra, oppure sul sole24ore.com. Parliamo delle carceri italiane oggi dopo i due fatti di cronaca, il suicidio della brigatista Blefari Melazzi, la vicenda di Stefano Cucchi, ragazzo arrestato e uscito morto dal carcere qualche giorno dopo. I familiari chiedono chiarezza. Vi chiediamo, secondo voi c'è un'emergenza di diritti negati nelle carceri italiane? Per ora state già votando e vi siete divisi, il 50%, ma ne parleremo più avanti dopo la lettura dei giornali. In primo piano. E il virus ha oggi, con le paure, i timori, il terrore in alcuni casi della psicosi che si è impossessata di alcune città, soprattutto Napoli, e che oggi conquista le aperture dei giornali. Virus ha, timori per i bambini, questo è il titolo del Corriere della Sera. Virus ha, già 17 morti, apre così Repubblica. L'influenza fa paura, assalto agli ospedali per La Stampa. Influenza A, ospedali assediati per il Messaggero. Le altre aperture di altri temi che poi vedremo, voglio solo citare il Sole 24 Ore. Scatta il test moratoria, circolare dell'ABI, agevolazione alle imprese in ritardo sui pagamenti da meno di 6 mesi. E nel PDL si studia un primo sconto IRAP da 1,5 miliardi di euro. Lo vedremo perché è molto interessante, è la notizia economica sicuramente del giorno. Ma parliamo appunto del virus A. Ovviamente c'è una città, soprattutto Napoli, dove si stanno concentrando i decessi. 8 morti sui 17 dell'intero territorio nazionale, leggo dal Corriere della Sera, proprio a Napoli, l'articolo di Fulvio Buffi. E allora ci si chiede e ci si pone la domanda: perché proprio qui? Questo non è il colera del 73, che un perché ce l'aveva nella condizione igienica della città complessivamente disastrosa, molto più che nelle cozze indicate come colpevoli. Non è nemmeno il male oscuro del 79, che rimase oscuro finché fu sbagliato l'approccio medico, ma poi si chiarì e smise di uccidere. Questo è un virus di cui si sa molto, ma certo le domande ci sono. Napoli, i casi e il mistero, la miseria non c'entra. Ed è anche Repubblica che fa un viaggio soprattutto al Cotugno, l'ospedale più sotto attenzione in questo momento, con un viaggio di Concita Sannino che proprio va nei reparti ad ascoltare e anche a cogliere i timori delle persone. C'è da dire che c'è una personalità politica che non è veramente politica, ma è un uomo prestato alla politica, che è anche nell'occhio del ciclone in questo momento, vale a dire il vice ministro alla salute Ferruccio Fazio. Vado per esempio sulla Stampa, dove leggo a pagina 3 il ritratto di Jacopo Iacoboni, il professore vice ministro per caso, Fazio e le troppe indecisioni del governo. Basteranno 2 dosi, forse una, la pandemia sarà leggera, un po' si sta aggravando, le scuole potrebbero rinviare l'apertura, le scuole apriranno regolarmente. Nel Ferruccio World, tra starnuti e influenze A, la grande ammalata per ora è la dichiarazione pubblica. E poi scrive Iacoboni, chi ha lavorato con il professore a Milano lo giura, guardi che Ferruccio, il ministro, non lo voleva neanche fare, figurarsi il vice ministro. Non sapeva certo Fazio, dice Iacoboni, che poteva immaginare di perderci, perché se è certo che Ferruccio Fazio è un politico quasi per caso, pure assodato che nell'ultimo anno ha dovuto attraversare pericoli persin superiori al rischio contagio, gli odi nel PDL, il tranello di dover dire e ridire in una maniera quanto mai poco chiara come una nuova influenza in evoluzione. Insomma, sono tanti che mettono un po' l'accento sulla figura chiave, certo, di Ferruccio Fazio, ma anche con le sue contraddizioni. Lo stesso giornale in prima pagina dice l'influenza è killer, mettetevi d'accordo, in un articolo di Stefano Lorenzetto, troppe le informazioni contraddittorie, parli solo Fazio. In questo caso il giornale invece dice parli solo lui, sostanzialmente. Per rassicurare voglio leggere, perché ci sono tanti commenti, ma insomma ognuno un po' dice la sua, certo, quelli che hanno più voce in capitolo forse parlano meno. In questo caso voglio citare Umberto Veronesi, che fa un commento che finisce in prima pagina sulla Stampa: niente panico, il virus è raramente letale. Esiste una via di mezzo tra psicosi e superficialità nell'affrontare il caso della nuova influenza A, scrive il professor Veronesi, è quello della razionalità. I dati scientifici in tutto il mondo ci dicono che il virus A è raramente letale. Non è molto più aggressivo dell'influenza stagionale, ha però caratteristiche peculiari, è molto contagioso, colpisce una fascia d'età nuova per una sindrome influenzale, che è quella dai 5 ai 14 anni, spesso in una forma grave che richiede il ricovero. Altra informazione che la scienza ci dà, dice Veronesi, è che non ci sono segni nel mondo di mutazione del virus, cioè della sua trasformazione in forma più grave. E l'ultimo dato è che esiste un vaccino che ha dimostrato efficacia. Che fare allora, dice Veronesi, il buon senso ci consiglia di aderire alla campagna di vaccinazione. Il programma è vaccinare subito i gruppi a rischio e poi il 40% della popolazione entro i primi mesi del 2010. In sostanza, il mio invito una volta di più è alla misura. Non serve la corsa ansiosa alla vaccinazione, ma non bisogna sottovalutare il problema. Scrive così Umberto Veronesi. Certo, ci sono paesi dove la situazione è ben più seria, come in Ucraina, e lo cito volutamente perché domani c'è una partita di calcio, quella che vede l'Inter in Champions League contro la Dinamo a Kiev, e c'è il sindaco, e qua è citato dal Corriere ma anche dalla Stampa, il sindaco di Kiev Chernovietsky, che ha detto facciamo la porte chiuse questa partita. E c'è tra l'altro il resoconto dello sbarco proprio dell'Inter, che ieri è arrivata a Kiev ed è stata accolta da zero tifosi ma da una sala d'aspetto dell'aeroporto che, scrive il Corriere, sembra una puntata del Dottor House. Nessun tifoso in attesa, una moltitudine di persone con il volto coperto da una mascherina. Vabbè, trovate molto sulla questione virus A, come detto, se volete anche un po' terrorizzarvi, leggete i giornali. Se volete stare un po' più tranquilli, passate ad altro. Per esempio la politica. Oddio, tranquilli. Ieri c'è stato questo duro attacco del Giornale a Napolitano e a Fini. Un duro attacco al quale, secondo Repubblica, Fini risponde così. L'attacco è questo sostanzialmente, che secondo il Giornale, il Quirinale e Fini sono d'accordo per far vedere le leggi preventivamente prima di approvarle alla Camera sostanzialmente, no? C'era anche un caso di un emendamento che secondo il Giornale sarebbe sparito, un emendamento sparito di Andrea Ronchi, ministro finiano, perché sarebbe stato sgradito al Quirinale, una visione preventiva. Beh, un'accusa molto forte su Repubblica, il gelo del presidente della Camera con Feltri, vale a dire il direttore del Giornale, ci vedremo in tribunale, tanto con quello ci vedremo in tribunale, così un Fini arrabbiatissimo butta sul tavolo la copia del Giornale, archivia con quella battuta l'ennesimo attacco che lo accomuna a Napolitano, dietro il quale vede la mano di Berlusconi. Sul Colle la reazione non è molto differente. Il presidente legge, si indigna, ma la sua reazione dopo una giornata in cui arrivano continui messaggi di solidarietà è un gelido no comment. Dunque questo alleggerebbe nella politica, dove si profila un'altra battaglia, un altro scontro su quella che è una proposta fatta da Ignazio Abrignani, che è un deputato, è anche un consigliere del ministro Scajola, e ha fatto una proposta per modificare la par condicio. La par condicio, sapete, che è quella legge che regolamenta, insomma, in fase di campagna elettorale, di dare lo stesso spazio sostanzialmente a tutti i partiti. Il progetto berlusconiano di riforma della par condicio, leggo sempre su Repubblica, ma lo trovate un po' su tutti i giornali, e in vista delle regionali ha iniziato il suo iter in Parlamento. Il centrosinistra già è insorto, è una nuova legge ad personam. Sostanzialmente, che cosa prevede questa legge? Prevede di cancellare la par condicio per dar spazio su radio e TV ai partiti non più tutti nella misura uguale, ma in rapporto, in proporzione alla loro presenza in Parlamento, insomma in proporzione al loro valore in termini anche di percentuali di voto. Abrignani ha detto poi: per togliere qualsiasi alibi alla sinistra proporrò un emendamento che sopprime la reintroduzione degli spot elettorali a pagamento, ma certo va cambiata questa par condicio. Insomma, questo è un tema politico che in vista delle regionali sicuramente verrà trattato è il tema politico sul quale ci si scontra e ci si confronta tra centrodestra e centrosinistra in questi giorni in Parlamento. Parlamento, peraltro, come sapete, chiuso. Non è politica, ma certo trovate un po' ovunque la vicenda di Marrazzo anche oggi. L'abbiamo sentita anche in GR24 e addirittura l'apertura di Giornale Libero, e le voglio citare: cocaina, Marrazzo confessa, questo è il titolo di apertura del giornale. Marrazzo pippava, questo è il titolo di Libero. Beh, Marrazzo, prime ammissioni, ho pagato per la cocaina. Ieri l'ex governatore del Lazio è stato interrogato di nuovo, accompagnato dalla moglie. Ci sono anche le foto un po' così rubate, un po' in chiaroscuro, della moglie chiusa nella macchina, giusto per rubare magari qualche espressione del volto. Chissà perché, sì, qualche volta ho pagato per avere la cocaina. Leggo dal Corriere della Sera. La confessione di Piero Marrazzo arriva durante l'interrogatorio lungo 3 ore, un faccia a faccia voluto dalla procura perché ci sono ancora molti particolari da chiarire. I magistrati vogliono sapere come mai abbia speso migliaia di euro per incontrare i trans, ed ecco l'ammissione. Sostanzialmente ho pagato anche per la cocaina, ma solo un paio di volte. Non sono mai stato ricattato, e questa, diciamo, è una nuova versione. È stata solamente una rapina da parte dei carabinieri. Trovate molto su Marrazzo, compreso una lunga intervista Libero ad Alfonso Signorini, il direttore di Chi, accusato da qualcuno, per esempio da Repubblica, di essere in qualche modo l'artefice di tutti i dossier berlusconiani. E lui, in questa lunghissima intervista a Barbara Romano, leggo solo una risposta, dice: una favola della sinistra, un'invenzione del partito dei rosiconi, come D'Avanzo, Repubblica, i soci del Fatto, che sostengono che io abbia fabbricato finti scoop del fidanzato di Noemi per coprire la liaison tra lei e Berlusconi, che tra l'altro non è mai esistita. Insomma, trovate questo, come trovate il rilancio della proposta: ora facciamo il test antidroga ai deputati. Beh, la vicenda di Marrazzo l'ha rilanciata. In primo piano scatta il test moratoria, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Si tratta del tema del credito alle imprese, un tema molto sentito in Italia. Una moratoria a maglie strette, vale a dire, c'è stato il vademecum dell'ABI, l'associazione bancaria, con le regole per le domande alle banche, e tra l'altro il 1 dicembre ci saranno i risultati. Per avere un'idea di quante imprese provenienti da quali regioni hanno fatto richiesta di essere ammesse alla moratoria di un anno sui loro debiti, occorrerà attendere l'inizio di dicembre, scrive Rossella Bocciarelli sul Sole, Sole che pubblica anche il testo della circolare ABI, con l'appello anche del presidente Giuseppe Morandini, vicepresidente di Confindustria, che ha la delega proprio sulla piccola e media impresa, che dice: servono più aiuti alle imprese. E l'altro grande tema in fatto di tassazione è quello dell'IRAP, sapete ormai da molto tempo. E dal Sole 24 Ore a pagina 5 si legge che il PDL tenta l'affondo sull'IRAP, cioè c'è un'ipotesi di emendamento a un decreto del ministro Ronchi, per il quale il relatore, che è Lucio Malan, ha già detto non è un'ipotesi inverosimile, un tentativo di sostanzialmente cominciare già a ridurre, con un emendamento fa scattare una riduzione dell'imposta dell'IRAP, magari in versione soft, circa 1,5 miliardi di euro, un impatto dunque inferiore a quelli prospettati dai vari emendamenti nei giorni scorsi alla finanziaria, ma scrive Marco Rogari sul Sole, potrebbe essere già questo il primo iter per cercare di dare una piccola sforbiciata a questa tassa. C'è molto di carceri italiane oggi sui giornali, dopo gli episodi, li abbiamo detti, del suicidio della brigatista Blefari e anche la vicenda di Stefano Cucchi, questo giovane morto in maniera misteriosa dopo l'arresto, per i quali i familiari chiedono una verità piena. I legali della Blefari accusano niente cure perché era una brigatista. Questa è la denuncia sostanzialmente che trovate su tutti i giornali. C'è anche, lo voglio segnalare, una iniziativa del Fatto Quotidiano che pubblica sotto la dicitura vite spezzate l'elenco, preso tra l'altro dall'associazione Ristretti Orizzonti, che si occupa di carcere, l'elenco delle 81 persone che sono morte quest'anno una volta che sono entrate in carcere. Molte, alcune sono di morte naturale, molti però sono suicidi. Si parte da Aziz, marocchino, 34 anni, il 3 gennaio 2009, suicidio proprio, e si finisce proprio con Diana Blefari Melazzi, anche in questo caso suicidio, il 31 ottobre 2009 a Rebibbia. Sono 81 nomi con i motivi dell'arresto, le cause della loro morte, li trovate a pagina 5. Beh, fa davvero impressione, c'è da dire che è l'apertura questa di giornali come il Manifesto, che mette una foto di carcerati con il titolo Sottoterra. Perché? Perché c'è questo audio impressionante che è stato diffuso dal carcere di Teramo, in cui il comandante, così si è autoriconosciuto nella voce, ha detto: un detenuto non si massacra in sezione, si massacra sotto. Anche se in realtà il comandante dice: non stavo parlando di un pestaggio, ma certo c'era tensione. Gli altri, il giornale di Sansonetti apre così: in Italia c'è la pena di morte. Questo è il titolo, certamente esagerato, ma volutamente provocatorio. L'uccisione di Cucchi, il suicidio di Blefari e di altri 60 più detenuti morti qui che in esecuzioni negli Stati Uniti. Questo scrive... gli altri, così come Liberazione, insomma, il rovescio del diritto è sempre l'apertura sulle carceri. E tra l'altro voglio sottolineare un lungo e interessante editoriale di Luca Ricolfi sulla Stampa: carceri, ipocrisia bipartisan, un attacco a destra e a sinistra, che sostanzialmente, scrive il professor Ricolfi sulla Stampa, dicono e predicano sulle carceri, ma poi sostanzialmente fanno ben poco per risolvere questo problema in maniera bipartisan. È il tema del nostro sondaggio di oggi, lo voglio ricordare. È il sondaggio di oggi, vi chiediamo se secondo voi esiste un'emergenza diritti negati nelle carceri italiane. C'è da dire che per il momento state votando su radio24.it o il sole24ore.com, prevalgono, ma di pochissimo, il 51% per il momento, i no, secondo voi non c'è un'emergenza di diritti negati nelle carceri. Vi segnalo in chiusura una bella e lunga, non intervista ma colloquio, ad Andrea Casalegno. Andrea Casalegno, che è un collega del Sole 24 Ore, ma è anche il figlio di Carlo Casalegno, ucciso dalle Brigate Rosse, vice direttore della Stampa, che racconta anche la sua militanza in lotta continua. Perché? Perché proprio 40 anni fa nasceva Lotta Continua. E tra l'altro dice, tra le tantissime cose interessanti, Casalegno parla del delitto calabresi e parla di Sofri, e dice: ci vuole davvero molta ingenuità a sostenere che Marino, il grande pentito che accusò Sofri, si sia inventato ogni cosa, e questo tutti in Lotta Continua lo pensano. Di certo non troverete la mia firma in calce ai manifesti che protestano l'assoluta estraneità di Sofri. Casalegno, che racconta dell'uccisione del padre ma anche della sua militanza da giovane proprio in Lotta Continua. È una bellissima intervista colloquio con Aldo Cazzullo sul Corriere, che vi segnalo. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Anche a te. Sì. Allora, tu paghi le bollette? Ho anticipato, so che l'avresti fatta tu questa domanda. No, guarda, in realtà volevo chiederti se avevi fatto caso a quanto abbiamo detto anche nel giornale radio. Accidenti. Pare che Putin stia chiedendo all'Europa di aiutare l'Ucraina a pagare le sue bollette per il gas di Mosca. Ah, me l'ero persa. E quindi anche Kiev fa fatica. Era rassegna stampa, leggevo. Tu eri in altre faccende affaccendato. Kiev fa fatica, c'hanno pure l'influenza, insomma l'Ucraina... Momentaccio. Comunque a noi quello che interessa è la difficoltà di questo paese a far quadrare i conti di casa propria, perché è una situazione che accomuna questo paese a quella di molte famiglie italiane. Adesso sembra un paragone assolutamente un po' ardito, come al solito il pretesto un po' per iniziare con lo scherzo, ma il tema è assolutamente molto serio. Perché? Perché negli ultimi 3 anni le spese per la gestione della casa sono diventate ancor di più le voci di spesa più pesanti per il budget familiare. Noi peraltro abbiamo avuto modo di parlarne anche qualche qualche mattina fa, sempre a Soldi e Dintorni, affrontando la questione del livello di indebitamento delle famiglie. Perché? Perché è convinzione diffusa che chi rimane in ritardo con i pagamenti lo fa saltando, ad esempio, le rate dei prestiti. Invece, oltre un quarto degli italiani incontra difficoltà nel pagare le bollette e spesso ritarda il pagamento di luce e gas. Ecco perché c'è chi ha pensato ad una sorta di protezione da questa eventualità. È un'assoluta novità per il nostro mercato. Buongiorno a Daniela Ronchi, direttore commerciale di Cardiff Assicurazioni. Buongiorno a tutti. Compagnia francese. Sì, esattamente, gruppo BNP Paribas. E infatti voi, venendo dall'esperienza francese, dove già questa possibilità per gli utenti delle utenze domestiche, quindi siamo tutte quante, come sono tutte le famiglie praticamente, hanno l'opportunità di assicurarsi contro proprio il rischio di dover in qualche maniera trovarsi in una situazione economica diversa rispetto al passato e quindi saltare il pagamento delle utenze domestiche. Intanto com'è andata l'esperienza francese? Direi molto bene, perché l'accordo con EDF data da alcuni anni e ormai abbiamo più di 100.000 assicurati che hanno scelto di proteggersi sui rischi relativi alla incapacità di far fronte al pagamento delle utenze domestiche. E quindi questo ci ha portato a sviluppare in questo momento storico lo stesso tipo di prodotto per il mercato italiano. Peraltro avete fatto, prima di partire con il prodotto, anche un'indagine sul mercato italiano, scoprendo che l'85% degli italiani ha modificato il proprio comportamento nel pagamento delle utenze domestiche, una percentuale altissima. Proprio così, l'85% delle famiglie italiane ha dovuto modificare il proprio comportamento nella vita quotidiana, in particolar modo nella gestione della casa e dove le bollette evidentemente per la fornitura di energia sono quelle di spesa principale. Diceva molto bene, le spese per la gestione della casa insieme a quella dei beni alimentari e del pagamento dei mutui, degli affitti di casa, sono le spese principali degli italiani. E sono fisse peraltro. E sono fisse. E questo porta ad un bisogno di protezione ancora più alto. Allora, spieghiamo come funziona questa copertura assicurativa che sta partendo in Italia, anche se al momento sta partendo solamente in 3 regioni italiane, dottoressa Ronchi. Esatto, perché questo accordo ci vede partner di Synergas, che è un utilities di fornitura di energia e di gas del modenese. Questa garanzia permette alle famiglie di proteggersi contro eventi molto particolari, che sono innanzitutto quello della perdita di impiego, dell'incapacità da lavorativa, e permette anche di coprire ad una popolazione più senior, quindi più di età più avanzata, contro il rischio di ricovero ospedaliero. Queste garanzie permettono di godere di un indennizzo mensile di 100 euro per 6 mesi. E questi 6 mesi sono un periodo congruo per far fronte alle spese domestiche e per poter ritrovare un'attività lavorativa. Bisogna proprio certificare che questi 100 euro di indennizzo mensile vengano destinati al pagamento delle bollette? La cosa è molto più semplice perché di fatto questi 100 euro vengono accreditati nelle bollette, quindi Synergas accredita l'indennizzo della compagnia sulle bollette. Di fatto la bolletta viene azzerata o ridotta in base ai consumi della famiglia. Per avere, dottoressa Ronchi, un indennizzo mensile di 100 euro in caso di necessità, quanto occorre versare? Il premio è variabile oppure è una polizza standard o appunto è modificabile in relazione alla composizione del nucleo familiare, in relazione ai consumi che vengono fatti di luce e gas? No, di fatto abbiamo scelto la strada più semplice con Synergas, che è quello di determinare 3 livelli di prezzo, uno per la famiglia, considerando un consumo medio, uno per assicurare non solo il capofamiglia ma anche il coniuge e un terzo per i senior, con livelli di prezzo che variano da grosso modo 1 euro a 2 euro mese. Allora, la polizza, tra l'altro vorrei ricordarlo, questa è un'informazione di servizio ovviamente per chi magari contestasse che fosse una piccola trasmissione stamattina di contenuto pubblicitario, non è così, a noi ci piace capire quello che succede sul territorio, che tutto ciò che succede, tutto ciò che può aiutare le famiglie che sono in difficoltà. La polizza può essere stipulata presso gli sportelli di questa compagnia contattando il numero verde 800 038 083. Perché avete scelto Synergas, dottoressa Ronchi? È una sperimentazione del tutto casuale oppure c'è una motivazione che vi ha portato a orientarvi verso il territorio, come dire, del centro-nord-est? Allora, di fatto Synergas è stata una delle utilities più reattive in questo momento, perché di fatto stiamo facendo questo tipo di proposta a società anche di dimensioni più importanti a livello nazionale, ma come sempre sono le regionali quelle che sono più attive. Perché questa cosa? Perché si stanno ponendo in un mercato per loro liberalizzato il bisogno di Certo, fidelizzare i clienti che sono già per loro esistenti e fare conquista di nuovi clienti. Quindi le utilities più attente si stanno ponendo il problema di arricchire la loro offerta tradizionale, quindi di fornitura di energia, con servizi aggiuntivi e servizi di contenuto come il prodotto assicurativo che siano di interesse particolare dei clienti. Mm-hmm. E questo tipo di copertura è così interessante, ce lo dicono anche le ricerche di mercato che abbiamo condotto, perché il bisogno di protezione in questo momento delle famiglie non solo è un bisogno molto percepito, ma è anche molto elevata la propensione di acquisto. Senta, ci potrebbe fare un esempio per concludere su quanto, sempre in relazione a questa possibilità di ottenere un indennizzo mensile di 100 euro, quanto dovrebbe spendere una famiglia di media composizione, 4 persone, mettiamo? Le dicevo, assicurando sia il capofamiglia che il coniuge, vuol dire spendere meno di 20 euro l'anno. Siete già partiti? Siamo già partiti perché abbiamo avviato una fase di test proprio nel periodo estivo, intorno alla metà di luglio, con diverse attività svolte in modo congiunto con Synergas, quindi aspettiamo ancora questo mese e poi tiriamo un po' le somme di questo esperimento. Benissimo, allora noi magari torneremo a ricollegarci con lei, dottoressa Ronchi, per farci raccontare com'è andata, perché ci interessa molto tutto ciò che serve a proteggere nella famiglia. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, e buona soprattutto giornata. Mi raccomando, lavorate sul terreno della trasparenza nella distribuzione di questo prodotto, che è ciò che serve ancora di più alle famiglie, capire bene quello che compra. Alessandro. Eccoci qua. Oggi Salva parliamo della casa Salva Energia, c'è un importante progetto che è partito da poco, riguarda la domotica, quindi tutto ciò che attiene alla casa intelligente, una cosa molto interessante, non svelo altro, oggi alle 12. Queste le notizie in primo piano, una notizia arrivata poco fa, un medico di 37 anni è morto la notte scorsa all'ospedale di Salerno dove era ricoverato, si tratta della nona persona morta in Campania dopo aver contratto il virus A e sono così 18 i morti in Italia, con il vice ministro alla salute Fazio che comunque tranquillizza e invita i cittadini a non intasare gli ospedali bensì contattare i medici di base. Piero Marrazzo, interrogato dai magistrati, ammette: durante i miei incontri con i trans facevo uso di cocaina. L'ex governatore del Lazio ha invece negato di aver subito un ricatto, ha parlato dell'irruzione dei carabinieri come di una semplice rapina. In Afghanistan il presidente rieletto Hamid Karzai ha promesso stamattina un governo inclusivo nel corso del suo discorso dopo la vittoria elettorale. Karzai ha aperto anche ai talebani: depongano le armi, ha detto, e partecipino al processo di pace. Infine per il calcio, stasera torna la Champions League, spicca Milan-Real Madrid con il ritorno di Kakà a San Siro. L'altra italiana impegnata è la Juventus in trasferta israeliana contro il Maccabi Haifa. E allora alle 8.35, detto che ieri il sondaggio che si interrogava proprio su Marrazzo, vi chiedevamo se c'era troppa morbosità nei mezzi di informazione, secondo voi il 74% ha detto di sì. Oggi parliamo di carceri italiane. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Sapete che un paio di giorni fa si è suicidata in carcere a Rebibbia la brigatista Diana Blefari Melazzi, accusata e condannata per all'ergastolo per l'omicidio Biagi. Ma poi c'è anche un'altra vicenda, la vicenda di questo giovane Stefano Cucchi, arrestato, morto in carcere in circostanze sicuramente da chiarire. Oggi il ministro Alfano riferirà al Senato, i familiari chiedono giustizia a gran voce. Insomma, ce n'è per parlare di carceri italiane che oggi davvero conquistano molte pagine di giornali con commenti. Noi ci vogliamo chiedere se secondo voi c'è un'emergenza di diritti negati nelle carceri italiane. Io intanto voglio salutare, la ringrazio per essere con noi, la professoressa Carol Bibi Tarantelli. Buongiorno, buongiorno professoressa. E la vedova, buongiorno, la vedova di Ezio Tarantelli, economista, ucciso il 27 marzo del 1985 dalle Brigate Rosse. L'abbiamo chiamata professoressa perché mi ha molto colpito l'intervento che lei ha fatto ieri sulla stampa, in cui ha detto: lei ha un timore riguardante la vicenda della Blefari Melazzi, il timore che diventi in qualche modo un'icona, che diventi, addirittura posso usare questa parola, un'eroina per qualcuno? Ma è molto possibile che questo succeda. Come interviste mi sembra che sia successo, si mette in dubbio quello che è successo prima. Lei non ha accettato la condanna e era una persona che si pone fuori, ma lei ha non solo ha partecipato alla, all'uccisione di Marco Biagi, ma ha anche detto che se fosse stato per lei, prima di ucciderlo, l'avrebbe torturato. E io penso che assieme all'umana pietà che è necessario avere e coltivare per la sofferenza di una persona che è arrivato a togliersi la vita, bisogna anche tenere presente in modo giusto il contesto in cui lei ha vissuto e quello che ha fatto e la distruttività che lei non solo ha vissuto dentro di sé, ma che ha messo in atto contro l'altro, perché per quello che ho capito io ha partecipato anche all'uccisione di D'Antona. Le chiedo, gli avvocati della Blefari hanno detto non l'hanno curata perché era una brigatista, questa è una loro posizione, secondo lei se fosse così sarebbe una cosa grave, non da... Certo, sarebbe grave, tutti meritano cure, bisogna epurare se è vero. A me sinceramente l'idea di puntare il dito contro un'istituzione in modo facile non mi piace, va fatto in modo serio. Se non è stata curata perché è una brigatista, questo è gravissimo, ma non so perché dicono questo, perché da quello che ho capito io dal regime duro lei è stato messo insieme agli altri detenuti quando è stata trasferita a Rebibbia, è stata tolta dal regime duro. Questo sì, io le chiedo, beh, voi sentite, insomma, il suo italiano è perfetto, ma professoressa no, Tarantelli non è perfetto, purtroppo. È originaria degli Stati Uniti, del Massachusetts, ieri ci siamo scambiati qualche chiacchiera. E allora le vorrei sottoporre il titolo che oggi Gli Altri, il giornale di Piero Sansonetti, fa. Il titolo è questo: in Italia c'è la pena di morte. L'uccisione di Cucchi, il suicidio di Blefari e di altri 60. Più detenuti morti qui che in esecuzioni negli Stati Uniti. Beh, mi interessa il suo parere sia per la vicenda che l'ha colpita personalmente, sia per il fatto che lei è americana. Allora, la prima cosa che io voglio dire è che io sono contraria in modo radicale e totale alla pena di morte, per tantissimi motivi tra i cui etici, ma c'è un motivo proprio di fondo per cui secondo me è necessario essere contro la pena di morte, perché come si è visto negli ultimi anni negli Stati Uniti, da quando gli esami del DNA sono diventati più perfezionati, moltissime persone condannate a morte o addirittura giustiziati sono stati provati a essere innocenti. Allora, finché la giustizia può sbagliare, e siccome è un'impresa umana può sbagliare, allora non ci deve essere, se solo per quello, la condanna a morte. Poi trovo invece questo titolo una cosa di un qualunquismo spaventoso, perché se vogliamo fare questo paragone bisogna paragonare con quante persone sono morte non perché sono stati giustiziati, ma sono morti nelle carceri americane notoriamente durissime durante lo stesso periodo. Poi, che detto questo, che c'è un problema di tutti questi suicidi, penso che non ci sia dubbio. Io mi ricordo negli anni 80 le carceri in Italia scoppiavano e c'erano delle rivolte anche sanguinose, e si è fatta una riforma del carcere che permettevano i permessi premio, cioè il premio anche della riduzione della pena per buona condotta, per chi non era più pericoloso. Sì. E questo ha messo fine ai comportamenti disperati come il suicidio. Allora, non, secondo me, gridare che c'è la pena di morte in Italia vuol dire solo noi siamo cattivi, non dobbiamo fare niente, noi buoni contro l'amministrazione carceraria cattiva. Invece io penso che bisogna vedere quello che si può fare, perché questo è un numero che fa spavento di suicidi. Certo, questo spavento. Sì. Tra l'altro la stanno ascoltando e gli voglio salutare Paolo Granzotto, editorialista del giornale. Buongiorno Granzotto. Buongiorno. Così come voglio salutare Patrizio Gonnella, che presiede l'associazione Antigone. Buongiorno Gonnella. Buongiorno. Che monitora sempre quello che succede nelle carceri italiane. Granzotto, avete sentito le parole insomma della vedova Tarantelli. Granzotto, le chiedo, lei ieri ha fatto un editoriale anche duro, dire siamo stanchi di capire questo atteggiamento anche un po' buonista, dire povera Blefari Melazzi, doveva uscire, era malata. Perché ha fatto questo commento così duro? Perché mi aspettavo poi le reazioni che ci sono state, è un po' quello che diceva la signora Tarantelli, adesso si dimentica ciò che ha fatto Blefari Melazzi e la si considera una vittima dei diritti negati in carcere. Ora, lei si è suicidata, si poteva evitare il suicidio? Forse sì, probabilmente no, lei non è che si è suicidata, cioè il problema del carcere è il carcere medesimo, che è un luogo di disagio, è un istituto di pena, e quindi la stessa privazione della libertà è una pena fortissima, e quella non si può togliere, cioè per togliere il disagio bisogna togliere la pena, bisogna togliere la carcerazione. Si è arrivati a dire, ad esempio, che un personaggio che ha avuto un regime carcerario, diciamo così, tra virgolette, di lusso, cioè cella singola, con possibilità, parlo di Sofri, con possibilità di collegamenti esterni, di scrivere, di ricevere posta, di parlare, di fare videoconferenze, si lamentava anche del fatto che non poteva ricevere i libri con la copertina cartonata. Recentemente si è lamentato che le cuciture dei cuscini, dei carceri, non sono fatte bene e possono strappare i capelli. A questo punto non se ne esce più, cioè l'unico problema per risolvere la crisi del sistema carcerario è abolire il carcere, mi sembra, no? Da questa provocazione io voglio partire. Gonnella, perché la difesa di Blefari Melazzi? Glielo dico così duramente, certo c'è la Costituzione, l'articolo 27 dice che le pene devono essere, insomma, tendere alla rieducazione, questo lo sappiamo tutti, un paese civile si giudica anche, come diceva Voltaire, dal livello delle sue carceri. Perché voi portate avanti questa battaglia dicendo i diritti ci sono negati nelle carceri italiane? Noi in realtà non guardiamo solo a Blefari Melazzi, questo è uno dei casi. Penso a Stefano Frapporti, morto a fine luglio, dopo che era stato arrestato, a 50 anni era incensurato, gli hanno trovato dell'hashish e appena arrestato si è suicidato in cella. Penso al sindaco di Rocaraso, non so se vi ricordate questo episodio, che si suicidò in carcere e così via. I suicidi sono tantissimi. Ecco, io non guardo solo alla Costituzione nella parte in cui dice che la pena deve avere una funzione rieducativa, ma dice anche che non deve consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. E lo dissero i nostri costituenti perché c'erano passati dalle patrie galere, che erano quelle dell'era fascista. Ecco, noi portiamo avanti questa nostra battaglia di civiltà e ci crediamo e ci abbiamo creduto in tutte le fasi di questi ultimi 20 anni, perché in questi ultimi 20 anni non c'è stata una questione di colore politico, l'abbiamo fatto anche quando governava il centrosinistra, perché comunque progressivamente c'è stata una, diciamo, un progressivo peggioramento delle condizioni di vita nelle carceri italiane, determinate primo fra tutto dal sovraffollamento. Entrano in galera oggi 1000 persone in più al mese, abbiamo 65.000 detenuti e 43.000 posti letto. È chiaro che in questo modo c'è l'indifferenza, la gente vive in letti a 4 piani e non può. E questo è sbagliato, costruiamo più carceri, però su questo nessuno o pochi puntano, insomma. Voglio farvi ascoltare un audio che circola da un paio di giorni, insomma è arrivato con un CD in busta chiusa dal carcere di Teramo, magari si sente un po' male, però sentiamo, una delle due voci è il comandante, lo ha detto lui stesso, lo ha ammesso, sia la mia voce del carcere di Teramo, sentiamo. È vero che il detenuto ha fatto così, ma è anche vero che la massacrata di detenzione, non si può massacrare un detenuto, si massacra sotto, si è rischiato la rivolta, perché c'era il negro e il negro che ha visto tutto, poi il detenuto abbiamo parato, è andato a comprare un bar. Allora, ha detto in sezione non si massacra il detenuto, si massacra sotto. Abbiamo rischiato la rivolta perché c'è il negro che ha visto tutto. Il comandante ha detto, a dire la verità, non mi riferivo a un massacro, a un pestaggio, però la voce è la mia. Io, tra l'altro, siccome ci hanno chiamato tantissimi, ci stanno chiamando, però vorrei dare spazio a Domenico da Teramo, perché mi dicono dalla redazione. Domenico, buongiorno. Buongiorno. È vero che lei, come dico, dalla redazione lavora al carcere di Teramo? Sì, è vero, è vero. Che dice di quest'audio? Beh, sicuramente riconosco anch'io la voce, so dell'episodio, però non è quello che si vuol far passare dai media. Non è un massacro inteso nel senso letterale, ma è un massacro quando viene richiamato il detenuto, perché purtroppo in sezione succedono degli episodi gravi. Cioè è stato trattato a male parole. Sicuramente, perché è stato preso un pezzo del discorso, perché io conosco la storia, quindi poi ci sarà l'inchiesta giudiziaria che chiarirà. Però sicuramente molte volte il detenuto ha i suoi diritti e quando sbaglia viene richiamato severamente, quindi a volte, parlando fra colleghi, lo dobbiamo massacrare, ma nel senso di richiamarlo, di punirlo, perché chi sbaglia viene punito. Guardi, io le voglio dare buona fede, cambiate termine però. Capisce che massacrare il detenuto, insomma, se la lingua italiana ha un senso. Io poi, per carità, ci sarà un'inchiesta, lei giustamente dice non è nel senso in cui si intende, però che devo pensare io, massacrare il detenuto, Domenico? Chiunque, qualsiasi persona ascolta quel brano capisce quello che ha detto quella persona, perché sì, anch'io, se non conoscevo l'ambiente, avrei pensato la stessa cosa. Va bene. Questo credo che sia va bene. C'è un problema di diritti negati, secondo lei, in carcere, visto che lei ci lavora? Secondo me no, però io volevo dire anche un'altra cosa, quello che succede a Teramo, perché io faccio parte di un'associazione, Fontanelle 2000, che collabora insieme ai ragazzi disabili del centro Ricci Conti di Atri, e abbiamo finito l'altro giorno a raccogliere l'ulivo, detenuti e ragazzi disabili. Abbiamo fatto del teatro all'interno del carcere di Teramo. Sono esperienze che comunque aiutano anche i detenuti. Grazie Domenico per questo suo racconto. Prima di tornare un attimo da Paolo Granzotto, volevo un commento su questo da Gonnella. Io vorrei tornare dalla professoressa Tarantelli. Professoressa, le chiedo, ma umanamente, anche tutti questi discorsi, sentire parlare in questi toni, insomma, i commenti sulla Blefari di questi giorni sui giornali, le fa rivivere un po' tutto questo momento che è lontano nel tempo, ma in realtà immagino mai cancellato, mai cancellabile? Ma diciamo che è più vicino in questo momento, perché siamo nei preparativi per il 25° anniversario a marzo. Certo. Però io volevo dire una cosa, parto con un dato scientifico. Un professore di una delle maggiori università degli Stati Uniti, Yale, un professore di psicologia, ha preso gli studenti e li hanno divisi in studenti normalissimi, ovviamente, in guardie e carcerati, e li hanno rinclusi. Sì. E hanno visto che la quantità di prepotenza che arrivava a sfociare anche in violenza fisica da parte dei normalissimi guardie, studenti guardie, è aumentato in modo vertiginoso. Allora, questo ci dice che è la stessa condizione del carcere che può produrre episodi di violenza, che può produrre negazione dei diritti, addirittura violenza. Per questo io penso che associazioni come Antigone sono necessarie, e penso che l'occhio esterno e l'insistenza che sia rispettato l'articolo della Costituzione che dice che la pena deve avere anche un senso di umanità. Detto questo, però, il carcere è necessario. Certo. Perché ci protegge tutti, sia a livello psichico, perché sentiamo che qualcun altro si occupa dei violenti, non lo dobbiamo fare noi. Non c'è una giustizia alle ronde, no? Ma a volte sembra sembra che scordiamo questo, che il carcere deve esserci. Vorrei tornare a Paolo Granzotto, fa un po' male sentire quest'audio, abbiamo sentito anche la testimonianza di questo ascoltatore che ci ha chiamato, lavora da Teramo. Che dobbiamo pensare, Granzotto, sentendo quest'audio? Certo, poi le notizie, uno sente un audio e tira una conclusione, e però l'audio, come quella foto di Cucchi impressionante che è stata pubblicata da alcuni giornali, insomma, è un modo anche per portare all'attenzione dei problemi, forse un modo sbagliato, però così, questo è. Sì, io sento molto male gli interventi Te vediamo di perfezionare, insomma, su questa vicenda comunque di quest'audio, insomma, non si massacra, ma si massacra non in sezione, sì, ma sotto. Sì. Sentito così sembra che il massacro sia riferito al pestaggio, diciamo. Poi comunità, diciamo così, ha un gergo suo, anche noi giornalisti abbiamo un gergo che non avete lavori, non capiscono. Comunque è indubbio che nelle carceri ci possono essere reazioni assai dure da parte dei carcerieri, reazioni assai dure o situazioni di grande disagio da parte di chi sta in carcere. Il problema dei diritti negati, per tornare alla Blefari, è la domanda che pongono coloro che difendono, che cercano di capire, è se la Blefari era compatibile o non compatibile, lo stato della Blefari è compatibile o non compatibile con la detenzione. Questa domanda è una domanda retorica. Nessuno è compatibile con la detenzione. Nessuno. Certo. E quindi dice, bisogna trovare degli antidoti a questi stati, e l'unico antidoto è la libertà. La Blefari scriveva, devi trovare il modo di farmi avere gli arresti domiciliari, che io questo inferno non ci posso stare più. Il problema era uscire, quindi il problema, la crisi del sistema carcerario, il disagio del sistema carcerario è determinato dal sistema stesso. Come diceva anche la vedova Tarantelli, che io ringrazio e saluto, mi devo fermare qui, ringrazio anche Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, così come Paolo Granzotto del giornale, e appunto la vedova professoressa Carol Bibi Tarantelli per essere stata con noi e aver detto delle parole che io sottoscrivo assolutamente. Ci fermiamo, la domanda è quella: c'è un'emergenza dei diritti negati secondo voi nelle carceri italiane? Votate su radio24.it, per il momento sempre il 54% dice di no, così come sul sole24ore.com potete votare. E noi, ringraziando Laura Marchesi e Carmelo Lauricella in regia, do la parola ad Oscar Giannino, ci ritroviamo domattina 7:30.